Fresh Bit di Giulia Crivelli. Ain't Libra Horoscope for week of December 24, 2015. Tra i più originali e seguiti oroscopi settimanali, in Italia e non solo, c'è quello di Rob Brezny, pubblicato nel nostro paese dalla rivista internazionale. Quello apparso nel numero uscito mercoledì scorso, con 2 giorni di anticipo sul consueto venerdì per via delle feste natalizie, è interessante in particolare per il segno Libra, bilancia. The English word ain't can mean am not, is not, are not, or have not, scrive l'astrologo, but it ain't recognized as a standard word in the language, ma non è riconosciuta come una parola normale del vocabolario. Chi la usa rischia di essere scambiato per volgare o uneducated, che non significa ineducato o maleducato, bensì non istruito o poco istruito, per tornare a un false friend, cioè a quelle parole o espressioni la cui tradizione più ovvia in italiano non è quella corretta, da cui la definizione falsi amici. Ain't, in realtà, has been around since 1706, more than 300 years. Viene usata dal 1706, cioè da più di 300 anni. La maggior parte delle parole che sono entrate nell'uso da così tanto tempo di solito diventano ufficiali. Ma vediamo altri usi di ain't. I ain't got no money, non ho soldi. I ain't done nothing wrong by speaking to the gentleman. Non ho fatto niente di male parlando con quel gentiluomo. Una frase tratta dall'opera Pigmalione di George Bernard Shaw. Can I have a cigarette? I ain't got none left. Posso avere una sigaretta? Non me ne è rimasta nemmeno una. Molto usato anche nelle canzoni, ain't. Ricordiamo tra i titoli più recenti, If I Ain't Got You di Alicia Keys. Per tornare all'oroscopo di Brezny, ci sarebbe una similitudine tra la storia dell'espressione ain't, ingiustamente trattata dall'alto in basso dai linguisti, potremmo dire così, e il 2016 dei nati sotto il segno della bilancia. I see your journey in 2016 as having resemblances to the saga of Ain't, Libra. You will meet resistance as you seek greater acceptance of some non-standard but regular part of your life. Here's the good news. Your chances of ultimately succeeding are much better than Ain't's. Ovvero, ho buone notizie, Libra, bilancia. Le tue possibilità di avere successo nel prossimo anno sono molto maggiori di quelle di non averlo.